Buona serata, ben ritrovati da Mirko Cavallini Studio e di Daici in regia con la collaborazione di Francesco Galante. Siamo verso la conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, una settimana iniziata mercoledì 18, si concluderà dopodomani mercoledì 25 con la festa della conversione di San Paolo. Tema di quest'anno: l'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione. Ne stiamo parlando ampiamente nello spazio del mattino, giorni della Chiesa fra le 7 e 5. E le 7:30. Un evento proposto dalla Diocesi di Padova, ufficio per l'ecumenismo, con Don Giovanni Brosegan, in collaborazione con le chiese luterana, metodista, ortodossa romena, è stato il convegno che si è svolto al Teatro San Leopoldo presso i Cappuccini di Padova in piazzale Santa Croce. Un convegno intitolato Dal conflitto alla comunione, il cammino del dialogo luterano-cattolico, perché come saprete quest'anno si ricordano i 500 anni della riforma luterana. Papa Francesco è stato a Lund, in Svezia, qualche settimana fa, proprio per ricordare questo evento. Il Papa stesso ha aggiunto: Lutero non voleva distruggere la Chiesa, voleva effettivamente riformarla e cambiarla. Hanno parlato appunto di questo cammino del dialogo tra i luterani e i cattolici, diversi interlocutori, alcuni ve li proponiamo stasera, una seconda parte domani. Le voci saranno quelle di due teologi cattolici, Don Riccardo Battocchio e Don Angelo Maffeis, di un pastore luterano, Bernd Prigge, di un teologo valdese, William Jourdan. L'introduzione curata in sostituzione di Don Giovanni Brosegan da Don Giulio Osto, docente della Facoltà Teologica del Triveneto. Bene, allora, ecco, ci ritroviamo per questo momento annuale, che è appunto il convegno ecumenico, che viene sempre proposto come aperitivo alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Avete preso sicuramente all'ingresso qualche materiale a questo proposito, tra il quale c'è anche questo piccolo foglietto che riporta il testo biblico di riferimento per quest'anno e anche gli altri testi biblici che accompagnano la settimana di preghiera. Come dicevo, chiaramente quest'anno è connotato a questo anniversario particolare, e questo anniversario legato a questa data simbolica, ecco, del 31 ottobre 1517, connota questo nostro incontro in modo, ecco, molto forte, per un dialogo in ambito appunto luterano allargato, perché poi le sfumature della riforma sono tante. Ma lascio subito la parola al moderatore di questa mattinata, che è Don Riccardo Battocchio della Facoltà Teologica del Triveneto, che poi presenterà un po' gli altri relatori e il senso di questo dialogo che cominciamo. Quindi buona giornata a tutti. Buongiorno e benvenuti, e grazie anche a Don Giulio che ci ha introdotti in questa mattinata. Una mattinata che vuole ricordare non solo il fatto che nel 2017 ricorre il quinto centenario della pubblicazione delle 95 tesi di Martin Lutero sulle indulgenze, l'evento dal quale per tradizione si fa iniziare la riforma protestante, ma nel 2017 ricordano anche i 50 anni dell'inizio del dialogo teologico ufficiale tra la Federazione Luterana Mondiale e la Chiesa Cattolica. Nel 1967 veniva costituita la Commissione Internazionale per il Dialogo Cattolico-Luterano. Per 450 anni circa, le chiese cristiane della tradizione latina, la cui identità confessionale si era costituita nei primi decenni del XVI secolo, in seguito a una serie di eventi politici, culturali, religiosi, queste chiese in Occidente hanno percorso strade diverse, spesso conflittuali, nel migliore dei casi, ma tollerandosi a vicenda. Ci sono stati anche durante i secoli scorsi momenti di incontro e di scambio fra cristiani e cristiane di diverse confessioni, in ambito spirituale, teologico, operativo, però non a livello ufficiale, ossia non con un coinvolgimento diretto delle chiese in quanto tali. Il movimento ecumenico nel secolo scorso ha reso possibile anche il dialogo teologico ufficiale, ossia con un coinvolgimento esplicito delle chiese, proprio in quanto chiese. E la teologia, la ricerca di un linguaggio il meno inadeguato possibile per dire la fede dei cristiani, non è l'unico aspetto di questo dialogo tra le chiese, non è l'unica dimensione del cammino verso l'unità, ma è una strada che non può non essere percorsa. Siamo in cammino, non solo, ma anche nel dialogo teologico. Siamo in cammino, cattolici, luterani, riformati, valdesi, metodisti, battisti, cristiani di diverse confessioni o cristiani che non si identificano con una delle confessioni che si sono costituite tradizionalmente dopo il XVI secolo. Siamo in cammino e oggi vorremmo concentrarci in particolare sul cammino che più direttamente coinvolge la Chiesa Cattolica Romana e la Federazione Luterana Mondiale. Non in maniera esclusiva, lo sentiremo, ma con questa attenzione specifica, legata naturalmente ai 500 anni dell'inizio della Riforma Protestante, ma in particolare anche ai 50 anni dell'inizio del dialogo ufficiale cattolico-luterano. Abbiamo alle spalle secoli di controversie e di conflitti, lo sappiamo, siamo ancora divisi, cioè non possiamo celebrare assieme la cena del Signore. Sappiamo però di essere uniti per il battesimo, tramite il quale il Padre, nella potenza dello Spirito Santo, ci ha inseriti nella vita, nella morte, nella risurrezione di Gesù Cristo, rendendoci testimoni di quella condizione filiale a cui ogni essere umano è chiamato e per la quale ogni essere umano è creato. Ecco, siamo uniti in questo, siamo in grado di condividere momenti preziosi, uno è anche questo, momenti preziosi dell'esperienza spirituale, teologica, caritativa, della testimonianza cristiana. Rimaniamo tuttavia in cammino verso una unità riconciliata, una unità tale da poter essere visibile, anche nel segno della condivisione della celebrazione eucaristica. Non siamo noi ad avere preso questa iniziativa, è l'amore di Cristo che ci spinge verso la riconciliazione, come ci suggerisce in maniera forte la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Perché qualcuno potrebbe anche pensare che sia il caso di accontentarsi di quanto già ora è possibile. Rispetto a qualche decennio fa, viviamo relazioni almeno ufficialmente pacifiche. Potremmo accettare che le cose rimangano come stanno, cercando almeno di non divorarci a vicenda, senza pretendere troppo. La domanda è se, accontentandosi delle cose come stanno, possiamo dire di essere fedeli al Vangelo. Io, ma non credo solo io, mi permetto di dubitare di questo. Ripeto, sappiamo che l'unità visibile non sarà il prodotto diretto dell'impegno dei cristiani. La comunione dei cristiani è un dono, già ora. La pienezza della comunione, la visibilità della comunione sarà un dono nel tempo e nell'eternità, ma anche nel tempo, è quello che attendiamo e speriamo. Ecco, possiamo legittimamente immaginare come potrebbe essere questa comunione visibile, questa unità visibile anche nel segno della condivisione della cena del Signore. Possiamo immaginare, molti hanno tentato e tentano di immaginare, potremmo immaginarla come il reciproco riconoscimento tra diverse chiese della autenticità cristiana di ciascuna. Chiese diverse che si riconoscono reciprocamente. Ovvio, si dovrà discutere ancora molto sui criteri, sulle condizioni di questo eventuale reciproco riconoscimento. Alcune cose, forse molte, dovranno cambiare, ma qualche passo in questa direzione è già stato fatto. Ecco, il riconoscimento però implica e presuppone, meglio, la conoscenza della propria e dell'altrui tradizione, dell'identità di ciascuna chiesa, quell'identità che si è costituita nei secoli, con doni particolari, con limiti, talvolta anche con peccati, che accompagnano il configurarsi delle diverse chiese cristiane. La conoscenza però non si limita a una presa d'atto della propria e dell'altrui identità. Se non ci è dato ancora di riconoscerci in pienezza, è invece possibile e doveroso passare da una conoscenza propria e altrui alla riconoscenza. È doveroso esercitarci nella riconoscenza, nella gratitudine, facendo nostro lo stile dello scambio dei doni o del cosiddetto receptive ecumenism, ecumenismo della ricezione, quella proposta di stile ecumenico orientata non dalla domanda cosa devono imparare da noi le altre tradizioni cristiane, bensì dalla domanda cosa possiamo noi imparare da loro. Ecco, in questo convegno, in questa mattinata, ci sta a cuore soprattutto il secondo aspetto, la conoscenza. Conoscenza non tanto della storia e delle dottrine di ciascuna tradizione, ma del cammino che hanno fatto e stanno facendo verso la comunione nel reciproco riconoscimento. E favorendo la conoscenza speriamo anche di riuscire ad alimentare la riconoscenza. Tutto questo non per rafforzare le chiese, per rafforzare la Chiesa, per renderla più salda, per incrementare la forza del cristianesimo in Occidente, non è questo lo scopo è quello di far sì, per quanto sta a noi, che il Vangelo di Gesù Cristo sia annunciato. E in questo ci aiutano, in questo breve ma intenso cammino di stamattina, ci aiutano un pastore della Chiesa Evangelica Luterana, un pastore valdese, un teologo cattolico, e li presento e poi do la parola a loro ci saranno i tre interventi in successione e poi avremo modo anche di dialogare per quanto il tempo ce lo consente. Vi presento nell'ordine dei loro interventi il pastore Bernard Prigge, che dal 2010 è il pastore della più vecchia comunità luterana d'Italia, una delle più antiche comunità al di fuori della Germania. Martin Lutero ha scritto a Venezia, i veneziani forse ce lo dirà, per tenere i contatti con questo gruppo che era presente naturalmente per motivi di scambi economici e altro a Venezia, e quindi è il pastore della comunità luterana di Venezia, attivo anche alla comunità di Abano Terme. Ha studiato in Germania e in Brasile, e prima di essere qui a Venezia ha lavorato, è stato pastore per 8 anni ad Hannover, seguendo anche l'attività della diaconia della chiesa evangelica luterana tedesca. Il pastore William Jourdain è nato e cresciuto nelle valli valdesi del Piemonte, ha studiato teologia alla Facoltà Valdese di Roma, presso la Facoltà di Teologia di Heidelberg e di Losanna. Dal 2010 svolge il ministero pastorale nelle chiese metodiste di Vicenza e Bassano del Grappa. Annunciato da poco il passaggio e trasferimento alla Chiesa Valdese di Genova. Facciamo tanti auguri anche per questo nuovo servizio. Angelo Maffeis è prete della diocesi di Brescia, ha conseguito il dottorato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana con una tesi poi pubblicata sul ministero ordinato nel dialogo luterano-cattolico, insegna teologia sistematica a Brescia, allo studio teologico del seminario di Brescia, alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Milano e nella sede bresciana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 1995 fa parte anche della Commissione Internazionale del Dialogo Cattolico-Luterano. È consultore del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Dal 2012 è diventato presidente dell'Istituto Paolo VI di Brescia, un centro importante di studi e di documentazioni. Molte pubblicazioni sul ministero nel dialogo luterano-cattolico, sulla giustificazione, sulla dottrina della giustificazione, sul dialogo ecumenico, sulla Chiesa come comunione dei santi, innumerevoli articoli, partecipazioni a convegni, studi sulla teologia, sulle teologie della riforma e anche sulla penitenza e l'unzione degli infermi, vari ambiti di attività. Li ringraziamo tutti e tre perché sono giorni per loro molto intensi, si diceva prima che la settimana dell'unità dei cristiani è occasione anche per i teologi che si occupano di ecumenismo, i pastori, e di un super lavoro, ma penso che lo facciano volentieri, e quindi li ringraziamo e siamo contenti di ascoltarli. Grazie, do la parola subito al pastore Prigg. Buongiorno, sono molto grato e felice di essere con voi stamattina, e anche sono molto contento che trattiamo quest'anno particolarmente quel grande argomento dell'anniversario delle 95 tesi di Martin Lutero. È veramente un anno molto intenso per noi protestanti, che abbiamo già detto che abbiamo tante richieste per fare interventi, convegni. Non è mai stato così intenso questo tempo per noi luterani, noi protestanti qua in Italia. Anche io sono molto contento di essere con voi perché c'è una lunga tradizione, il professore già ha spiegato che c'è la nostra comunità da anche quasi 5 secoli a Venezia, però anche qua nella nostra diocesi di Padova c'è una lunga tradizione di ecumenismo. Quando non c'era ancora la parola ecumenismo, già la comunità cattolica di Abano Terme ha dato l'ospitalità ai luterani da 50 anni fa. C'è una cappella a San Giuseppe, e ad Abano Terme si chiama questa cappella Cappella Ecumenica, perché da 50 anni fanno i luterani lì la celebrazione luterana ogni domenica, per i turisti tedeschi, anche per gli altri. E secondo me è anche un po', né? Abbiamo sentito che il cammino dell'ecumenismo è anche molto giovane, però ad Abano Terme già 50 anni fa si praticava l'ecumenismo, l'ospitalità, e nessuno sa questa cosa, e sono un po' anche sempre deluso, perché sempre quando io vado in Italia e spiego questa situazione, tutti sempre rimangono con la bocca aperta che da c'era questo comunismo che vivace da tanto tempo lì ad Abano Terme. Sì, vorrei parlare un po' stamattina sul dialogo cattolico-protestante verso dove. È stato pubblicato questo bel documento dal conflitto alla comunione e sentiamo ancora oggi tanti aspetti di questo documento, però voglio sottolineare alcuni punti che mi sembrano importanti. Il primo punto è l'obiettivo prioritario del dialogo cattolico-protestante, secondo me, è la Santa Cena, la Eucaristia comune. Questo obiettivo non deve mai essere perso di vista e deve anche essere dichiarato continuamente come tale nel dialogo comune. Dei segni di grande intensità espressiva alimentano la speranza che questo obiettivo possa anche essere raggiunto. Quando Papa Francesco, nel 2015, ha visitato la comunità luterana di Roma, ha portato come regalo un calice per la Santa Cena. Anche le sue affermazioni lasciano sperare che i teologi debbano trovare una via per poter celebrare assieme la Santa Cena e l'Eucaristia. Nella Chiesa Cattolica la questione dell'Eucaristia nelle coppie miste di coniugi è particolarmente pesante e un rifiuto è doloroso. E questo succede non tanto in Italia, perché sono pochi luterani, siamo solo 7.000 luterani, ma sono, non so quanti protestanti in Italia, forse 50.000. Però in Germania si dice che la metà sono cattolici, l'altra metà sono luterani, così sono tante coppie miste che diventa proprio un problema quando un partner può andare a prendere la Santa Cena e l'altro non può andare. Non... Però c'è adesso anche in Germania una pratica che tanti parroci praticano, che danno anche alle due la Santa Cena. Il dialogo cattolico-luterano deve tenere viva la memoria. E questo punto mi sembra molto importante, perché qualche volta si pensa che 20 anni fa l'ecumenismo era più vivace, negli anni 80, 90 forse, era molto, e anche Walter Cardinal Caspar, che viene anche la prossima settimana da noi nella nostra chiesa a Venezia per predicare sabato, ha scritto un piccolo libro con tutti i documenti ecumenici, come si chiama? Raccogli dei frutti. È importante perché sono tanti documenti importanti e dobbiamo anche trasmettere questa tradizione, questi documenti ai più giovani, perché qualche volta mi sembra che tanta gente non sa tanti progressi che abbiamo già fatto nella collaborazione. E così senza la memoria andremo disorientati verso il futuro. Nemmeno nel comunismo dobbiamo scoprire l'acqua calda. Possiamo costruire su quanto è stato raggiunto finora, a patto che non ce ne dimentichiamo. Attraverso lo sguardo comune verso questi raccolti passati ci possiamo sincerare sul dove stiamo oggi. Esistono parecchi documenti che descrivono lo stato attuale delle cose, ma che spesso sono sconosciuti. La nostra passione per l'ecumenismo deve contagiare anche i più giovani. Valorizzare e applicare assieme i consensi raggiunti. Che cosa vuol dire? Io vorrei spiegare con due esempi. La dichiarazione comune sulla dottrina della giustificazione per fede, nella quale luterani, cattolici e metodisti si sono riconosciuti a livello mondiale in un consenso nella verità fondamentale di questa dottrina, è un documento di importanza straordinaria per la storia ecclesiastica. Nella comprensione del messaggio della giustificazione, era la dottrina centrale della Riforma, oggi tra le comunità mondiali cristiane coinvolte non esiste più alcuna differenza che separa la Chiesa. Era il motivo per la separazione. Adesso, con questo documento del 1999, non separa più la Chiesa, così è importante si ricordare a questo fatto. Questo non può essere stimato abbastanza su quanti singoli aspetti della dottrina della giustificazione si estende il consenso. È stato ben esposto l'ultima volta nel 2013 nella relazione della Commissione Luterana Romano-Cattolica per l'unità con il titolo Dal conflitto alla comunione, dove anche il professore ha collaborato, ha scritto insieme con altri. Anche il mio secondo esempio si collega al documento Dal conflitto alla comunione del 2013. Secondo il sottotitolo, il documento vuole servire la comune commemorazione luterano-cattolica della Riforma nel 2017. Per questo tratta i temi principali della teologia di Martin Lutero alla luce dei dialoghi luterani romano-cattolici e disegna insieme uno schizzo storico della Riforma luterana e della risposta cattolica. Proprio la parte storica appena menzionata mi pare particolarmente necessaria. Non lo so, che si vede là il documento, che è un bellissimo documento. Si deve studiare, non è così facile, però vale la pena. Un terzo punto: nell'ecumenismo si deve continuare a lavorare pazientemente alle questioni della fede e della costituzione della Chiesa. C'è nel Consiglio Ecumenico delle Chiese a Ginevra, c'è una commissione che si chiama Faith and Order, no? Questione è una commissione della fede e della Costituzione. Un progresso nell'avvicinamento delle Chiese non può essere raggiunto semplicemente non considerando i contrasti ancora esistenti nei campi della fede e della Costituzione della Chiesa, per raggiungere l'unità della Chiesa con l'esclusione delle questioni dogmatiche. I credo delle Chiese non sono semplicemente una savora che si può gettare a mare per far salire più in alto la mangolfiera del ecumenismo. Se i motivi che nel passato hanno condotto a contrasti dottrinali non vengono battuti contentisticamente, cioè se non vengono chiariti nel nocciolo, allora i vecchi conflitti nascono di nuovo prima e poi. Una rimozione dei problemi aiuta poco, sia teologicamente sia psicologicamente. Quarto punto: nell'ecumenismo il pluralismo sociale deve essere accettato come situazione data. Non significa che le chiese vedano come opzione religiosa a loro discrezione il loro messaggio, cioè il Vangelo di Gesù Cristo, ma alla prospettiva di una società secolare anche il messaggio della Chiesa è una proposta trattante. Le Chiese devono fare le missionarie assieme. Le Chiese orientate ecumenicamente non lavorano le une contro le altre, bensì pacificamente una accanto all'altra e regolarmente anche l'una con l'altra in maniera amichevole. Il fatto che le Chiese si impegnino l'una accanto all'altra per le persone è utile all'incarico comune, perché non tutte le Chiese possono coinvolgere tutti allo stesso modo. L'una contro l'altra le Chiese non dovrebbero lavorare e per minimo tre motivi: perché professano un unico Signore che li ha inviati nel mondo, perché il campo di lavoro è così grande che non si devono rubare a vicenda le pecorelle, e perché la litigiosità dei cristiani non è una buona testimonianza per la fede cristiana. Quinto punto, nell'ecumenismo dobbiamo affermare tutta la pluralità e renderla percettibile all'esterno. L'unità cristiana è unita nella pluralità e quindi l'accettazione della pluralità non è una contraddizione dell'aspirazione all'unità. Al contrario, quello che c'è di grandioso nell'unità cristiana diventa ancora più chiaro tanto più è grande la pluralità che essa racchiude in sé. Proprio in Germania è una buona cosa riconoscerlo. In praticamente nessun altro paese al mondo esiste quasi parità tra le chiese, con il numero maggiore di membri, come è il caso in Germania, tra la chiesa protestante e la chiesa romano-cattolica. In Germania siamo 80 milioni di persone, e 25 milioni sono cattolici, 25 milioni sono protestanti e 30 milioni non appartengono più a una chiesa. L'ultimo punto, mettere il futuro dell'ecumenismo nelle mani di Dio. La parola del profeta Isaia al vecchio popolo di Israele vale anche per le chiese cristiane e il loro ecumenismo. Se voi non avete fede, certo, non potrete sussistere. Un futuro ci l'ha soltanto colui che ha fiducia nelle promesse di Dio e nella forza di Dio. Vivere l'ecumenismo e dargli forma non significa né cadere nell'azionismo né nella rassegnazione. Se l'ecumenismo sussiste e va avanti, non dipende soltanto dal fatto che siamo intraprendenti abbastanza e diamo continuamente nuove iniziative e programmi. Chi per il futuro dell'ecumenismo ha fiducia, soprattutto in Cristo, lavorerà con fiducia pacata all'approfondimento della comunione delle chiese e affiderà il successo, tra virgolette, dei suoi sforzi a Dio. Grazie. Dunque, io esprimo anche gratitudine per questo invito. Il pastore Prigg prima ha ricordato della prassi e dell'attitudine ecumenica che si vive prima ancora del tempo in cui la parola ecumenismo fosse entrata nel gergo comune, nell'esperienza di Abano. Questa mattina, venendo qui, ho avuto in qualche modo anche una piccola esperienza, per così dire, ecumenica, chiedendo informazioni sul tram. Non avevo mai fatto questa tratta dalla stazione fin qua. Una persona molto gentilmente mi ha spiegato dove scendere, poi ha capito che arrivavo in questo luogo e quindi mi guarda e mi domanda: ma quando è la festività di San Leopoldo? E io appunto ero impreparato su questo tema, quindi c'è la necessità di un ulteriore approfondimento ecumenico. È stata poi lei a dirmi che dovrebbe essere il 12 di maggio, quindi lo sapeva bene anche lei, ecco. Ha provato a vedere se ero in qualche modo preparato. Dunque, quando ho ricevuto l'invito a partecipare a questa giornata da Don Giovanni Brusegan, al quale appunto va un pensiero con l'augurio di una pronta guarigione dall'influenza che lo ha colpito, lui scherzando mi ha detto, dice: sai, ci serve anche un protestante riformato di quelli che rompono un pochettino le scatole, per così dire. Quindi io oggi sono, tra virgolette, troppo forte, scusate. Quindi oggi dovrei in un certo senso interpretare questa veste. Non so se lo farò pienamente, ma vi preannuncio che il mio intervento non sarà particolarmente tecnico. Credo che il professor Maffeis, in seguito, peraltro il professor Priga già l'ha fatto sottolineando alcune parti, ma il professor Maffeis ci introdurrà alla dinamica generale di questo documento, dal conflitto alla comunione. Io mi permetto alcune osservazioni di carattere più generale su, come dire, i festeggiamenti per il 500° anniversario della riforma protestante, o potremmo addirittura dire delle riforme protestanti, sottolineando fin dall'inizio la pluralità di dimensione. È già stato detto nella parte finale dell'intervento dal pastore Prigg, effettivamente la riforma significa sempre le riforme, non soltanto perché i riformatori sono stati più d'uno, ma perché il loro pensiero si è articolato con sfumature e in modalità differenti. E io credo che la sottolineatura di questo dato sia importante nella nostra situazione odierna, tanto per quanto riguarda il dibattito di carattere più tecnico intraecumenico, cioè intracristiano, quanto nel confronto con la società plurale con la quale siamo chiamati appunto a confrontarci. Ecco, quindi dicevo, alcune osservazioni di carattere generale nella prima parte, che suddividerò fondamentalmente in tre punti, e poi quattro brevi spot, per così dire, per cercare di illustrare in che modo dal mio punto di vista e dal punto di vista di alcuni autori o documenti ai quali mi sono ispirato, questo 500° anniversario della Riforma protestante possa e debba anche essere letto in un orizzonte più ampio, non confessionalistico, sottolineando con questo aggettivo quindi l'aspetto deteriore del termine confessionalizzazione. Dunque, prima considerazione, il documento che abbiamo qui in due versioni differenti, l'una pubblicata dal Regno, l'altro nel volume dell'EDB di Bologna, dal conflitto alla comunione, io mi permetterei alcune osservazioni variando un pochettino questo titolo e dicendo dal conflitto alla possibilità della comunione. Perché dobbiamo ammettere che in questo documento, non viene peraltro neanche taciuto nel documento stesso, ma ci avviamo su una strada di possibilità di comunione. Il pastore Prigg l'ha detto riportando uno degli esempi che anche dal mio punto di vista sono assolutamente centrali in questo dibattito, cioè la possibilità di riunirsi intorno alla mensa del Signore, alla mensa di Gesù Cristo, che appartiene a Gesù Cristo e a nessuna chiesa in particolare. Appunto, questo segnala ulteriormente che la comunione in realtà è possibile, non ancora raggiunta. Ecco, io credo che sia onesto iniziare il dialogo per l'approfondimento della conoscenza denunciando anche e sempre gli ostacoli che ancora permangono. Non tanto per far rimanere l'atmosfera da inverno ecumenico, come è stato definito negli ultimi anni, appunto in particolare il dialogo ecumenico, come sapete dal momento in cui c'è stata l'elezione di Papa Francesco al soglio pontificio, alcuni hanno cominciato, dopo alcuni gesti sicuramente importanti, di cui io credo non si possa assolutamente negare il significato profondo, una vera e propria, come è stata definita, teologia dei gesti ecumenici, è corretta a mio modo di vedere l'espressione. Alcuni, dicevo, all'indomani o poco dopo la sua elezione hanno subito parlato della possibilità che si aprisse effettivamente una nuova primavera ecumenica. Sicuramente oggi, ad alcuni anni di distanza da questa elezione, il dialogo ha preso nuovamente uno slancio e un passo nuovo. Gli ostacoli però, come dicevo, permangono. Sono ostacoli che riguardano, è stato citato, la questione della cena del Signore. La cena del Signore, l'Eucaristia, rimanda ad una comprensione differente del ministero, cosa che rimanda a sua volta sostanzialmente ad una comprensione differente della Chiesa. Potremmo ovviamente approfondire, ed è necessario in determinati contesti approfondire queste differenze e sottolineare che hanno un loro peso non soltanto accademico, ma nel vissuto delle chiese. Io a questo proposito vorrei però in un certo senso porre una domanda critica. E la domanda è se l'elencazione, per così dire, di tali ostacoli dica sostanzialmente l'essenziale e non rischi invece di far rimanere la discussione ecumenica in una sorta di orizzonte di definizione delle identità ecclesiastiche. Che cosa voglio dire con questo? Sicuramente il dialogo ecumenico, è stato detto, ha vissuto in alcuni anni, in particolare dopo il Concilio Vaticano II, uno slancio molto forte, e ci sono generazioni che possono ricordare, diciamo generazioni un pochettino più mature della mia, generazioni che possono ricordare effettivamente un fermento che oggi è difficile riscontrare. La situazione è sicuramente cambiata, lo vedremo, cercherò di sottolinearlo brevemente, ma è indubbio dire che dopo il Vaticano II, anche nel contesto italiano, anche grazie ad esperienze molto particolari, io voglio sempre sottolineare quell'esperienza straordinaria, uso volentieri questo aggettivo in riferimento al segretariato per le attività ecumeniche. Un'esperienza sostanzialmente, ma credo di poter dire unica nel contesto europeo, che ha portato avanti con tenacia, talvolta di fronte alle frenate, alle difficoltà, la cultura del dialogo ecumenico. Ecco, anche in questo contesto però, il dibattito ecumenico ha rischiato in qualche modo di rimanere legato a delle questioni che riguardavano fondamentalmente l'identità delle diverse chiese. La domanda fondamentale è se la questione relativa all'identità della Chiesa sia ciò che di essenziale noi come cristiani abbiamo effettivamente da dire. Allora, io credo, pensando fondamentalmente alla prospettiva italiana, non sono in grado e non voglio neanche parlare di altri paesi, ma io credo che rendendoci conto che i cristiani hanno qualcos'altro da dire, o meglio, hanno qualcun altro di cui parlare, noi dovremmo in qualche modo fare esercizio anche nel dialogo ecumenico di allontanarci un pochettino dalla presa di posizione netta legata all'identità ecclesiastica, riconoscendo che gli atteggiamenti, penso adesso alle due confessioni che sono qui rappresentate, non credo ci siano ortodossi in sala, e comunque il discorso credo sarebbe differenziato, ma per quanto riguarda il protestantesimo e il cattolicesimo, ci dovrebbe essere la maturità e la capacità di allontanarsi in un certo senso da un atteggiamento che, per quanto riguarda i protestanti, credo di poter descrivere così, una costruzione di identità per contrapposizione. Cioè, molto spesso, e questo è un tranello nel quale io per primo casco, molto spesso io non affermo innanzitutto chi sono, ma affermo prima di tutto chi non sono. Cioè, noi protestanti non abbiamo il Papa, noi protestanti non abbiamo i santi, ben si intenda nel senso di San Leopoldo, poi il discorso biblico è più complesso, ma comunque, eccetera, eccetera. Cioè, la tua identità viene sempre definita per contrapposizione a quella che è la maggioranza. E questo in realtà, permettetemi il gioco di parole, è molto poco protestante, molto poco capace di affermare quello che è il nocciolo fondamentale della fede cristiana, perché insomma il protestantesimo altro non ha voluto essere se non un tentativo di rimettere in luce l'Evangelo della grazia di Gesù Cristo. Ecco, allora, da questo lato la critica, l'autocritica protestante si articola in questo senso. Dall'altro lato, permettetemi di dirlo senza voler essere offensivo, io credo che anche da parte cattolica, questa è la mia valutazione, potrò essere contraddetto, si debba evitare di costruire una sorta di identità che lavora per esclusione e di conseguenza per indifferenza nel nostro paese. Qui sicuramente parla anche la voce di un rappresentante di una minoranza, ma nel cattolicesimo sicuramente l'identità è spesso costruita per esclusione. Pensate, per esempio, alla definizione relativa alle chiese e alle comunità ecclesiali. Termine, peraltro, mi permetto di rilevare che nel dibattito più recente e anche nelle espressioni pubbliche, per esempio di Papa Francesco, non è più stato utilizzato. Un cambiamento importante in itinere. Ecco, allora, tutto questo però semplicemente per dire che io credo che un cambiamento di passo nella prospettiva della possibilità della comunione debba partire dalla consapevolezza che il discorso ecumenico non è centrato e non riguarda fondamentalmente l'identità delle chiese, riguarda l'identità di qualcun altro, la sottolineatura verrà alla fine nel mio terzo punto. Secondo aspetto che vorrei sottolineare, quindi dopo dal conflitto alla possibilità della comunione, la riforma come patrimonio comune della cristianità. È una considerazione da un certo punto di vista banale, ma anche qui una considerazione che rimanda a parole che sono state espresse anche proprio da Papa Francesco in prossimità dell'incontro di Lundi il 31 ottobre 2016 e che sono entrate a far parte dei commenti degli osservatori dell'Ecumene Cristiana anche in seguito a questo incontro. Effettivamente il 500° anniversario della Riforma è il primo anniversario nel quale la Riforma viene riconosciuta come patrimonio comune della cristianità. Se non sbaglio, in un'intervista rilasciata alla rivista dei Gesuiti, ad una domanda relativa a come si può considerare la figura di Lutero, l'importanza della figura di Lutero, appunto il Papa ha risposto dicendo: ma lo si considera innanzitutto pensando a quello che è il suo lascito, cioè da un lato la Bibbia, la scrittura, e dall'altro appunto il senso, la consapevolezza della riforma. Ecclesia sempre reformanda, una consapevolezza che ha accompagnato la riforma protestante fin dall'inizio, che sicuramente è stata ripresa da alcune espressioni lievemente differenti nei documenti del Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium o nell'Unitatis Red Integratio non si parla di reformanda ma di purificanda, se non ricordo male. Ma in ogni caso un concetto che viene ripreso, la riforma come qualcosa che non si lega soltanto ad un quadro storico specifico, non si lega soltanto a delle identità confessionali specifiche, cioè quelle dei protestanti, ma la riforma come qualcosa che fa parte del tessuto e del vissuto delle chiese cristiane. Volevo riportare e condividere con voi un commento che mi sembrava bello e quindi rubo qualche idea ad un articolo che è uscito, molto breve tra l'altro, lo potete trovare su quella bella rivista che è Esodo, una rivista stampata insomma a Venezia, e un commento dell'ecumenista Brunetto Salvarani e del sociologo Paolo Naso rispetto all'evento di Lund metteva in luce, cercava di articolare le parole che sempre Papa Francesco avrebbe detto ai giornalisti sulla via del ritorno. Lui chiamava questo momento un viaggio ecclesiale che la gente deve capire bene. Allora, un viaggio ecclesiale innanzitutto, dove ecclesialità si riferisce a tutti i protagonisti di questo incontro. Cioè, non è un incontro tra fratelli e fratellastri, tra figli e figliastri. È un incontro tra figliuoli prodigi, per così dire. Prima considerazione. Seconda considerazione, un viaggio che la gente deve capire bene, la gente deve comprenderlo bene, perché voi sapete che in prossimità di quell'incontro, quello strumento talvolta benefico, talvolta diabolico, che è la rete, ha iniziato, dei computer ovviamente, ha iniziato a mandare messaggi tra loro molto contrastanti. Chi urlava, dice, al pericolo di una protestantizzazione del cattolicesimo, che tra l'altro, permettetemi la battuta, secondo me ci sono cose peggiori, però diciamo, comunque sia, qualcuno invece riteneva che questo fosse un rischio altissimo. E beh, in realtà non si tratta di questo. Cioè, non c'è bisogno di chiamare, di urlare al rischio della protestantizzazione del cattolicesimo, ma le persone devono capire bene che queste occasioni di incontro non sono qualcosa che riguardano soltanto i vertici cosiddetti delle chiese, ma che dovrebbero entrare nel tessuto e quindi nel vissuto comunitario delle comunità cristiane. E in questo viaggio, questo è un elemento io credo molto importante, si è rilevato anche con chiarezza, pensate a chi sedeva e a chi ha parlato in quell'occasione, l'arcivescova, una donna della Chiesa Luterana di Svezia, che in un certo senso, anzi della Cattedrale di Lund, che ha ospitato questo incontro, il Papa, originario dell'Argentina, ma con radici piemontesi, il segretario della Federazione Luterana Mondiale, Martin Jung, il nome non vi tragga in inganno, perché in realtà lui proviene dal Cile, e poi il presidente della Federazione Luterana Mondiale, un vescovo palestinese. Allora, queste quattro figure che cosa rappresentano? La Chiesa globale del nostro tempo. Cioè, non è un dibattito, come spesso si è sviluppato ancora l'ecumenismo nel corso del Novecento, un dibattito che riguarda quattro teologi che si muovono tra la Svizzera e la Germania, perché, diciamo, l'Inghilterra è già troppo lontana e quindi restiamo sicuri sul continente. È la Chiesa globale che si presenta al mondo globale. Ecco, questa credo sia una considerazione che troppo spesso nel contesto e nel quadro del dialogo ecumenico non viene tenuta presente. E poi passo all'ultimo punto, dei primi tre però, vorrà dire che gli altri quattro li faccio un pochetto. Quanto tempo ho ancora? 10 minuti, vabbè, correremo un po'. Vi dicevo, fin dall'inizio, dal conflitto alla possibilità della comunione, con la necessità di uno spostamento di orizzonte, perché qui non parliamo dell'identità delle chiese cristiane, ma la cosa importante in occasione di questo anniversario e nel quadro del dialogo ecumenico è l'articolazione teologica, certo, ma l'articolazione dell'identità di Gesù Cristo, l'articolazione della rilevanza di Cristo per il nostro mondo. Ecco, io credo che se le chiese protestanti e la Chiesa cattolica non sanno muovere il loro orizzonte di senso in questa prospettiva, allora tutta l'impresa ecumenica, perdonatemi, ma lascia il tempo che trova. Mi ha colpito molto un motto, sarebbe da contestualizzare un pochettino, ma il motto di una chiesa luterana statunitense che ha scelto per i festeggiamenti del 2017 questa frase: It is still all about Jesus. Cioè, festeggiare la riforma è ancora tutto relativo a Gesù. Un linguaggio che probabilmente ci sembra un pochettino strano, in un certo senso, in parte almeno non ci appartiene del tutto, ma io non so, ho l'impressione che Lutero e molti altri con lui, dopo tutto, in altri termini, ma la pensassero così. Quindi, ecco, festeggiare i 500 anni della Riforma in un orizzonte ecumenico significa lasciarsi interrogare e quindi trovare anche le modalità per esprimere, per ritornare a parlare dell'identità e della rilevanza di Cristo nella nostra società. Ora, vi dicevo, quattro brevi a questo punto, ulteriori passaggi per forse cercare di trovare delle indicazioni, delle piccole indicazioni nell'ottica di questa celebrazione. Il primo punto è molto semplice: ricominciare dalla scrittura e quindi dall'ascolto della scrittura. C'è un testo pubblicato in italiano che è frutto della commissione di dialogo luterana cattolica ed è pubblicato in italiano da EDB di Bologna sotto la, diciamo, la guida di Volker Letpin e Dorothea Sattler. È Quirignana. Grazie. Riforma 1517-2017, prospettive ecumeniche. Un testo che vi consiglio di leggere perché, diciamo, accompagna bene la riflessione su questo cinquecentenario. E in una parte gli autori dicono: la celebrazione del 2017 può essere per le chiese un'opportunità per promuovere intensamente la lettura della Sacra Scrittura, sia individualmente che in gruppo, e anche per cercare di fare una traduzione riconosciuta da entrambe le parti. Ecco, ricominciare da quella che è sicuramente la base comune. Qui siamo in una diocesi nella quale da 25 anni o forse anche di più esiste un gruppo piccino ma costante, fedele nella sua attività di studio biblico interconfessionale. Io credo che sarebbe bello se queste opportunità aumentassero semplicemente. Secondo aspetto, io direi non permettere che ulteriori documenti di dialogo diventino sostanzialmente lettera morta. Negli ultimi anni, le valutazioni ovviamente potrebbero essere, su questo rischiano di essere discordanti, ma negli ultimi anni è successo, a mio modo di vedere, troppe volte. La stessa dichiarazione congiunta sulla giustificazione per fede ha avuto, diciamo così, varie interpretazioni, ma praticamente il consenso raggiunto non è stato in grado di far compiere fattivamente, almeno fino ad ora, quei passi ulteriori che di fatto si auspicavano e che, a fronte di un consenso su quella tematica così centrale, avrebbero dovuto essere quasi un logico corollario, per così dire. 1999, 2001, la Carta Ecumenica, un documento che, adesso che lo cito, qualcuno dice: ah già, è vero, c'è anche quello. Appunto, c'è anche quello. In realtà avrebbe dovuto essere la piccola, forse, costituzione, no, è un'espressione troppo forte, ma insomma, il piccolo vademecum, chiamiamolo così, delle chiese cristiane europee. No, Non lo è diventato in buona sostanza. Molti aspetti di questo documento, io sono sempre rimasto colpito da quella parte della carta ecumenica, mi pare al punto terzo, nella quale si parla della questione dell'educazione cristiana, orizzonte che non può essere compreso se non in un quadro ecumenico. Che cosa poi questo praticamente significhi? Beh, è difficile da comprendere. Certo, non parliamo, diciamo così, della scuola pubblica, ma io credo che se pensiamo anche soltanto all'orizzonte accademico, gli scambi tra le facoltà teologiche ci sono, potremmo domandarci se sono sufficienti, se sono sovrabbondanti. Ecco, forse la sovrabbondanza è ancora da ricercare. Il terzo punto che vorrei sottolineare è il non considerare l'orizzonte di riflessione sull'unità come un qualcosa che già è stato predefinito. Cioè, questo è stato sottolineato già anche dal pastore Prigg, io credo che quando noi parliamo di unità rischiamo in determinati contesti troppo spesso di correre all'ottica di una unità sostanzialmente visibile che crea uniformità. Ecco, io spero che ci sia lo spazio per valorizzare ulteriormente altre modalità e altre comprensioni dell'unità che permettono non già di omologare le differenze, ma di valorizzarle, anche alla luce di quanto il Nuovo Testamento ci dice a proposito dei rapporti tra chiese tra loro spesso molto differenti. Io credo che questo serva a valorizzare appunto la ricchezza del cristianesimo nelle sue molte forme. E poi l'ultimo punto, e poi prometto di tacere, dal conflitto alla comunione o alla possibile comunione, passando per la testimonianza comune. Il documento appunto dal conflitto alla comunione al numero 4 e poi in molti altri passaggi dice: è la prima commemorazione della riforma, si intende, a dover fare i conti con la necessità di una nuova evangelizzazione in un tempo segnato sia da nuovi movimenti religiosi sia nel contempo dalla crescita della secolarizzazione in molte parti del mondo. Di conseguenza, la commemorazione comune ci presenta l'opportunità e l'onere di dare una testimonianza comune di fede. E Lund, la dichiarazione di Lund, riprende in buona sostanza questo orizzonte di pensiero: ci impegniamo a testimoniare insieme la grazia misericordiosa di Dio. Ovviamente questa tematica andrebbe approfondita, ci sono a questo proposito anche molte voci critiche che si domandano quali siano le basi per una testimonianza comune a fronte delle differenze, delle diversità profonde che ancora vi sono. Io credo che però non si tratti di irenismo ecumenico il rendersi conto, da un lato, di questa sfida che assolutamente è comune e il cercare di affrontarla, come già dicevo prima, pur nella consapevolezza delle diversità e delle differenze con le quali in un certo senso può essere mostrata anche la ricchezza di questo annuncio della grazia di Dio al quale tutti noi siamo chiamati. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e taccio. Era la voce del teologo valdese William Jourdan, che è intervenuto nel convegno svoltosi sabato 14 al Teatro San Leopoldo di Padova. Prima di lui il pastore luterano Bernd Prigg e il teologo cattolico Don Riccardo Battocchio, insieme a Don Giulio Ostro, che ha coordinato quella mattinata. Torniamo alla parte cattolica con l'intervento di Don Angelo Maffeis, sacerdote della diocesi di Brescia. E ringrazio anch'io per l'invito, e visto che tutti hanno fatto delle memorie, per me essere qui a Padova ricorda Don Luigi Sartori, che è stato una figura certamente per la nostra generazione è stato quello che ci ha permesso di scoprire cos'era l'ecumenismo, e credo che anche per l'ecumenismo in Italia la sua riflessione teologica e soprattutto il suo entusiasmo abbia segnato molti di quelli che poi si sono impegnati in questo campo. Io ho svolto il compito che mi è stato affidato, che recava questo titolo, la relazione tra giustificazione e Chiesa nel dialogo cattolico-luterano. Quindi lascerò da parte il testo che è già stato ampiamente citato per sviluppare qualche riflessione su questo tema che effettivamente si colloca nel punto focale del dialogo cattolico-luterano. E vorrei farlo con un itinerario che si sviluppa in quattro momenti. Una premessa che cerca di chiarire appunto come fin dall'origine della Riforma nel XVI secolo questi due temi, con gli ambiti a cui rimandano, cioè il tema della giustificazione, quindi la salvezza, e l'altro, il tema della Chiesa, come si sono messi in relazione. E poi vorrei soffermarmi nei passi successivi su tre punti, temi, luoghi in cui si coagula, si cristallizza la riflessione ecumenica che il dialogo tra Chiesa Cattolica e le Chiese della Riforma ha sviluppato in questi ultimi decenni. E sono il tema della Chiesa come sacramento, il tema della Chiesa apostolica e il tema della comunione ecclesiale. Sono tre luoghi dove un po' questi temi si ritrovano tutti insieme. Il primo aspetto, se si rileggono le vicende storiche che hanno segnato l'inizio della Riforma e i cui sviluppi hanno portato alla divisione della Chiesa in Occidente, si può osservare che in origine al centro dell'attenzione stava non la tematica della Chiesa, ma piuttosto la tematica della salvezza, la tematica della giustificazione. Sappiamo che per Lutero la questione centrale è come il peccatore possa raggiungere la certezza di ottenere la misericordia divina. E a questo interrogativo egli ha trovato risposta nella riscoperta dell'insegnamento dell'Apostolo Paolo sulla giustificazione per la fede e non per le opere. L'affermazione della centralità di questo tema dell'Apostolo Paolo, del suo pensiero, della sua teologia, diventa per Lutero la chiave interpretativa di tutta la scrittura e il cardine dell'intero discorso teologico. Dunque, il problema, potremmo dire, antropologico. Come il peccatore può raggiungere la salvezza, avere la certezza del perdono divino e della salvezza? Ben presto, però, al centro della controversia si è trovata la comprensione della Chiesa, lo spostamento di asse che si può osservare fin dai primi anni dei dibattiti suscitati da Lutero. Come si è compiuto questo spostamento? È avvenuto principalmente secondo due linee. Da una parte la rivendicazione di Lutero e degli altri riformatori dell'autorità esclusiva della scrittura è entrata in conflitto con la concezione che collocava la scrittura accanto alla tradizione e attribuiva ai pastori della Chiesa un'autorità decisiva per la corretta interpretazione della scrittura. In questa contrapposizione in gioco è la questione dell'autorità della Chiesa. Qual è il soggetto competente per l'interpretazione normativa della scrittura? Che cosa deve valere nella comunità dei credenti come necessario per la fede? Questa è la prima linea. E la seconda linea è quella che si lega al principio della giustificazione per la fede, che porta a criticare numerose pratiche presenti all'interno della Chiesa del tempo, giudicate dai riformatori come abusi e assolutamente incompatibili col carattere gratuito e incondizionato della salvezza. Tipico, per esempio, la critica che Lutero sviluppa all'idea dell'Eucaristia come sacrificio. Se noi comprendiamo l'Eucaristia come sacrificio, la trasformiamo in un'opera umana che pretende di conquistare la grazia e quindi stravolgiamo il suo significato. Quindi in nome della gratuità, del dono divino, della salvezza, della giustificazione, bisogna criticare quelle forme in cui la mediazione ecclesiale della salvezza diventa incompatibile col dono gratuito di Dio. È quindi comprensibile che il momento in cui 50 anni fa, all'indomani del Concilio Vaticano II, si riprendono i fili di questa controversia e si cerca di chiarire le tematiche che hanno a lungo accompagnato la polemica tra cattolici e luterani, questi due ambiti, cioè la concezione della salvezza, l'esperienza della salvezza che il credente accoglie e la Chiesa come luogo, come strumento, come mezzo attraverso cui questo dono divino raggiunge le persone, sia stata al centro del dialogo. Con una situazione un po' paradossale, perché non è solo la questione di come abbiamo pensato il dono divino della salvezza e la Chiesa, ma anche un diverso peso che si attribuisce a questi due punti focali. Certamente la tradizione della Riforma si concentra sul primo aspetto e tende a considerare la Chiesa, non dirò un elemento secondario, ma certamente che sta su un piano molto, molto più laterale rispetto al tema centrale che assume il peso fondamentale. La tradizione cattolica, anche se non pensa che la Chiesa esaurisca tutto il tema della teologia, però indubbiamente colloca la tematica della Chiesa in una posizione più centrale. E questo ha portato, ripeto, al di là del dissenso, del consenso su punti singoli, a confrontare due logiche, due principi di costruzione dell'insieme dei temi della fede cristiana che sono diverse. Di questo si è avuto una conferma anche nella dichiarazione, nel dibattito che è seguito alla dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione pubblicata e sottoscritta ufficialmente ad Augsburg nel 1999. Numero 18 di questa dichiarazione congiunta tratta del tema della giustificazione come criterio con cui valutare gli altri temi della teologia, della fede cristiana e le strutture della Chiesa. La dottrina della giustificazione, si legge nel numero 18 della dichiarazione congiunta, non è soltanto una singola parte dell'insegnamento della fede cristiana. Essa si pone in una relazione essenziale con tutte le verità della fede che vanno considerate intimamente connesse tra di loro. Essa è un criterio irrinunciabile che orienta continuamente a Cristo tutta la dottrina e la prassi della Chiesa. Quando i luterani sottolineano il significato del tutto singolare di questo criterio, essi non negano la connessione e l'importanza di tutte le verità di fede. Quando i cattolici si sentono vincolati da molteplici criteri, non per questo negano la particolare funzione del messaggio della giustificazione. Questo modo di cercare di mettere in relazione la centralità della giustificazione, dietro giustificazione pensate salvezza, il problema del dono gratuito che Dio fa della sua grazia all'umanità, il rapporto appunto tra questo tema centrale e altri criteri è stato uno dei punti su cui si sono concentrate le critiche alla dichiarazione congiunta. Eberhard Jüngel, per esempio, ha reagito in modo molto veemente, scrivendo: «Non ci si può sentire vincolati da altri criteri se si riconosce la funzione propria della dottrina della giustificazione. E se ci si sente vincolati da altri criteri, non esiste un consenso con la dottrina della Riforma su questo punto decisivo e non esiste neppure un consenso sulle verità fondamentali della dottrina della giustificazione». O si riconosce questo unico criterio, oppure se uno ne mette in fila altri, vuol dire che di fatto è apparente l'accordo sulla dottrina della giustificazione. In termini meno alternativi, cioè o scegli il punto focale giustificazione oppure scegli la Chiesa, no? Mi pare in termini meno alternativi si è espresso il documento dedicato proprio a questo tema, cioè il rapporto tra Chiesa e giustificazione, dal dialogo internazionale cattolico-luterano pubblicato nel 1993. La tesi qui non è tanto di stabilire una priorità, ma anzi si dice che giustificazione e Chiesa sono due realtà ugualmente originarie. Non puoi accettare una logica che metta prima l'una e dopo l'altra, perché se metti prima la giustificazione allora la Chiesa diventa una realtà secondaria, se metti prima la Chiesa allora il dono della salvezza viene subordinato a una mediazione umana. Non stanno, la logica del prima e del dopo non funziona, bisogna pensare in termini di uguale originarietà di questi due, di queste due realtà. Il documento Chiesa e giustificazione del 1993 si esprimeva appunto in questo senso. In senso stretto, noi non crediamo nella giustificazione nella Chiesa, ma nel Padre che ci usa misericordia e ci raduna nella Chiesa come suo popolo. In Cristo che ci giustifica, il cui corpo è la Chiesa, e nello Spirito Santo che ci santifica e vive nella Chiesa. La nostra fede si estende alla giustificazione alla Chiesa come opere del Dio Trinitario che possono essere debitamente ricevute solo nella fede in Lui. Noi crediamo nella giustificazione e nella Chiesa come mysterium, come mistero della fede, perché crediamo solo in Dio al quale possiamo abbandonarci completamente in libertà e amore e sulla cui parola di salvezza possiamo impegnare fiduciosi tutta la nostra vita. Mi pare interessante che qui si dice, noi crediamo anzitutto al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e l'economia della salvezza, alla cui origine noi riconosciamo l'opera del Padre, dello Figlio e dello Spirito Santo, è inseparabilmente orientata alla salvezza degli esseri umani e a costituire il popolo di Dio. Sono parte, queste due realtà, dell'unico movimento e quindi non possono essere in alcun modo messe in alternativa. Questo è l'orizzonte. Mi pare che si possa, alla luce di questa premessa, che in fondo ci dice che la questione teologica che sta alla radice di molte delle differenze tra la tradizione cattolica e quella della Riforma, così come si è configurata nel corso dei secoli, è proprio questo, il rapporto tra la salvezza che tutti riconosciamo come dono gratuito di Dio e il luogo ecclesiale dove noi concretamente la incontriamo, la riceviamo, la viviamo e con il suo agire la Chiesa diventa strumento attraverso cui altri possano essere chiamati alla fede e accogliere il dono della salvezza. Come mettere in relazione queste due realtà? Secondo passo, vorrei in questi secondo, terzo e quarto punto mettere in fila alcuni dei concetti che sono punti di coagulo, di cristallizzazione, di convergenza di questo problema considerato da un determinato punto di vista. Nella teologia cattolica del Novecento c'è un filone abbastanza vivace che ha trovato un certo successo che dice: pensiamo alla Chiesa come sacramento. Se vogliamo capire questo nesso tra la giustificazione, la salvezza che Dio concede gratuitamente all'umanità nel suo Figlio e che attua attraverso l'opera santificatrice dello Spirito, e la Chiesa come luogo in cui questo si compie, possiamo pensare alla Chiesa come un sacramento, cioè una realtà umana visibile, storica, che funziona in analogia al modo in cui noi incontriamo la salvezza nei sacramenti, che sono realtà del nostro mondo, che si vedono, si toccano, appartengono alla creazione e hanno un'efficacia di comunicazione della salvezza. Non sto a farla lunga perché c'è una discussione molto vivace anche all'interno della teologia cattolica sulla opportunità o meno di questa concezione della Chiesa come sacramento, ma questo si è trovato al centro della discussione anche nel confronto tra la teologia cattolica e la teologia luterana. In particolare la teologia luterana e quella evangelica in generale considera discutibili non tutte le interpretazioni della Chiesa, dell'idea della Chiesa come sacramento, ma quelle che potremmo chiamare massimaliste, cioè quelle che attribuiscono alla Chiesa, alla sua azione, alla sua mediazione, un rilievo tale da farla diventare quasi origine del dono della salvezza. No? Una Chiesa che è a tal punto santificata da Dio che diventa essa stessa fonte dalla quale l'umanità riceve la salvezza. Invece possono essere accettate le concezioni della sacramentalità della Chiesa che mantengono la necessaria distinzione tra Cristo come unica origine della salvezza e la Chiesa che è strumento attraverso cui lui agisce. Altri dicono ancora strumento attivo non va bene, strumento passivo, cioè nelle mani di uno che lo usa, invece può essere un modo corretto per pensare l'agire della Chiesa. In un altro campo, cioè il dialogo tra la Chiesa cattolica e le Chiese riformate, si è espresso questa contrapposizione in due categorie, in due concetti che sarebbero un po' come la sintesi della concezione evangelica e della concezione cattolica della Chiesa. La concezione evangelica si riassume nella idea di creatura verbi, una Chiesa che è creatura della parola, e invece la concezione cattolica la riassume nell'idea della Chiesa come sacramentum gratiae, cioè come sacramento della grazia. In realtà è interessante in questo dialogo vedere come andando a fondo questa caratterizzazione, noi teologi siamo appassionati quando riusciamo a fare un bello schema e metti in cima due titoli che fanno impressione, abbiamo così la convinzione che abbiamo risolto il problema. In realtà, andando a fondo, ci si rende conto come è troppo semplificatore questo modo di contrapporre le due concezioni della Chiesa come creatura della parola e come sacramento della grazia, perché si tratta non tanto di due possibilità alternative, ma di due dimensioni che devono essere tenute insieme, che in effetti sono tenute insieme nella pratica effettiva più che nelle teorie che in campo cattolico e in campo evangelico si elaborano sulla Chiesa. Si tratta di due prospettive complementari. Il documento del 2007, pubblicato dal Dialogo Cattolico-Riformato, scrive a questo proposito: una Chiesa sacramentale che non dà uno spazio appropriato alla parola di Dio sarebbe essenzialmente incompleta. Una Chiesa che è veramente creatura della parola celebrerà la parola liturgicamente e sacramentalmente. Se le nostre Chiese differiscono secondo queste due visioni, forse è meno perché una delle due è convinta che la Chiesa è solo creatura verbi o solo sacramentum gratiae, e più perché ciascuna tradizione ha enfatizzato un aspetto al punto da de-enfatizzare o trascurare l'altro. In questo caso, giungere alla piena comunione rappresenterà un processo in cui ogni comunità recupera l'ampiezza totale di quanto Dio ha provveduto per la vita della Chiesa. Un'altra via percorsa, mi pare interessante, sempre nel dialogo cattolico-luterano che citavo prima, nel testo del 93, Giustificazione e Chiesa, vede invece una tensione tra la Chiesa che è al tempo stesso recettrice e mediatrice, nel senso che comunica, che trasmette, non nel senso di una mediazione che starebbe sullo stesso piano di quella di Cristo, ma una Chiesa che riceve e dona la salvezza. Non comprendiamo la Chiesa se non teniamo insieme queste due dimensioni. Nel numero 108 del documento Chiesa e Giustificazione si dice una comparazione della comprensione luterana e cattolica della Chiesa non può prescindere dal fatto che la realtà della Chiesa comporta questi due aspetti in linea di principio inseparabili. La Chiesa è da una parte il luogo dell'evento salvifico, Chiesa come assemblea radunata, recettrice della salvezza, e dall'altra strumento della comunicazione della salvezza, Chiesa come inviata, come mediatrice della salvezza. Ma la Chiesa come recettrice della salvezza e la Chiesa come mediatrice della salvezza è sempre la stessa Chiesa. Mi pare che, osservando questi testi che riflettono sulla questione da cui siamo partiti, si possa vedere un risultato abbastanza magro attorno a questo tema, se si possa o meno attribuire alla Chiesa in quanto tale una consistenza di sacramento e in che senso la si debba intendere. La mia impressione è che con questo concetto riusciamo con difficoltà a capire il problema, a formulare il problema, e quindi evidentemente se si fa fatica a definire il problema sarà ancora più improbabile che attraverso questa via troviamo una soluzione. Perché? Perché il concetto di sacramento è potenzialmente ricco, interessante, ma può essere sviluppato in due direzioni diverse. No? Dire sacramento vuol dire che c'è una realtà concreta che appartiene al nostro mondo, una cosa, un'azione, una parola, e che ha un significato, un'efficacia che sta su un piano diverso, di cui Dio si serve per compiere la sua opera. Per usare le categorie agostiniane, in un sacramento c'è il signum, il segno visibile, c'è la res, la realtà che intende. Allora, voi il concetto di sacramento potete intenderlo o nel senso della relatività del segno rispetto alla realtà, no? Quindi ciò che conta non è il segno ma la realtà. Oppure lo potete intendere nel senso che se non è dato quel segno, la stessa realtà non c'è. A me pare che molta parte della difficoltà a capirsi sia legata proprio a questo modo che non è così univoco, così preciso, così chiaro di stabilire il legame tra la realtà e il segno attraverso cui la realtà viene comunicata. Questo comunque è un punto in cui vedete come la questione generale da cui ero partito in premessa, cioè il rapporto tra salvezza e luogo ecclesiale della sua comunicazione, si trova al centro della riflessione, dello sforzo per convergere verso una comune comprensione della Chiesa. Il secondo concetto è quello legato all'idea che la Chiesa è Chiesa in senso autentico se è apostolica, cioè se riproduce i tratti essenziali della Chiesa delle origini, se mantiene la fedeltà al Vangelo che ha ricevuto e permette di riconoscere nel modo in cui essa vive e agisce all'interno della storia la fisionomia appunto della Chiesa delle origini. Anche su questo c'è stata una controversia molto accesa, in fondo cattolici e luterani hanno a lungo disputato su quale forma della Chiesa corrispondeva alla volontà di Gesù che attraverso gli scritti degli Apostoli ci è stata comunicata. Nel 2006, alla fine della quarta fase del dialogo cattolico-luterano, è stato pubblicato un testo dedicato proprio all'apostolicità della Chiesa. E nel numero 67 di questo testo si legge, spesso si dice che i luterani ritengono che la Chiesa si regge solo mediante la predicazione e l'insegnamento del Vangelo nella successione apostolica, mentre al ministero non spetta alcun ruolo essenziale. Al contrario, si attribuisce ai cattolici l'opinione che già la serie ininterrotta di una legittima successione episcopale, in quanto tale, è una garanzia per l'apostolicità della Chiesa. Entrambe le affermazioni sono però fuorvianti. Qui c'è la descrizione di un modo molto comune di pensare. No? I luterani, quando pensano alla corrispondenza tra la Chiesa attuale e la Chiesa degli Apostoli, che costituisce il criterio, pensano che questa sia legata soprattutto attraverso la Scrittura. E nella misura in cui il messaggio, il contenuto della Scrittura continua ad essere predicato nella Chiesa, questa rimane fedele alla norma che gli Apostoli hanno dato. Invece i cattolici hanno la teoria della successione apostolica, per cui nella continuità dei vescovi e dell'ordinazione dei vescovi che presiedono alla Chiesa sono... è garantita appunto la corrispondenza tra la Chiesa di tutti i tempi e l'origine apostolica. È interessante che il nostro testo sull'apostolicità dica entrambe le affermazioni sono fuorvianti, cioè è un modo sbagliato, tanto diciamo affascinante per la sua semplicità quanto inadeguato, perché né i cattolici né i protestanti hanno questa concezione così univoca e monotona della realtà apostolica della Chiesa. Piuttosto è una convinzione che a partire dagli anni 60 del secolo scorso si è fatta strada nella riflessione ecumenica, che quando noi pensiamo alla continuità apostolica della Chiesa dobbiamo tenere presenti diversi elementi, che sono senz'altro la testimonianza degli apostoli che una volta per tutte si è fissata nella Scrittura, ma sono anche i ministeri, sono la vita apostolica, sono tutta una serie di realtà, nella celebrazione liturgica per esempio, che strutturano la vita della Chiesa. Quindi l'apostolicità non si capisce soltanto a partire da una realtà, ma da un insieme di realtà. E questo è interessante perché è in sintonia con quella visione degli elementi della Chiesa che al Concilio Vaticano II ha costituito uno degli strumenti per poter apprezzare in maniera più positiva la realtà ecclesiale delle altre chiese cristiane. È un tema che viene dalla riflessione di Congar degli anni 30, che comincia a elaborare questa idea che ci sono degli elementi della Chiesa, degli elementi in cui appunto noi possiamo riconoscere la fede apostolica, il fatto che ci sia la Scrittura, la fede in Cristo, il battesimo, ci siano la testimonianza cristiana, sono altrettanti elementi che testimoniano appunto la fedeltà di una Chiesa alla Chiesa degli Apostoli. Il problema è che ciascuno ha la propria lista di elementi della Chiesa apostolica e ciascuno stabilisce il confine tra quelli che sono necessari e quelli che invece sono una espressione possibile ma non necessaria in modo diverso. A me pare che questo documento del 2006 sia interessante perché cerca di fare un passo in avanti, perché questa teoria degli elementi è stata criticata anche in maniera abbastanza severa da parte di chi ritiene che sia sostanzialmente una teoria quantitativa. No? Tu hai un elenco di elementi e o ce li hai tutti o se te ne manca qualcuno non sei più chiesa ma sei comunità ecclesiale. Questa era la logica secondo cui quella differenza terminologica era stata utilizzata. A me pare interessante che il tentativo di questo testo sull'apostolicità della Chiesa del dialogo cattolico-luterano fa attraverso l'idea di configurazione. Cioè, quando tu hai gli elementi, devi pensare che sono come le tessere di un mosaico e tuttavia non basta avere l'elenco delle tessere dei vari colori, ma dipende anche da come le combini tra di loro e dalla combinazione risulta il disegno che tu ne fai. Noi possiamo vedere la fisionomia delle diverse chiese in realtà come espressione di una configurazione diversa di questi elementi dell'apostolicità della Chiesa. E quindi lo sforzo dovrebbe essere quello di andare verso una configurazione che raccolga il più possibile il consenso e che venga giudicata come espressione di una realtà ecclesiale che può essere riconosciuta. Non è che sia uno strumento miracoloso questo della configurazione, direi che se uno legge il documento vede che serve molto più a descrivere la situazione attuale che non a indicare come superarla. Però mi pare interessante il fatto che riconosca appunto come questa concezione della Chiesa che si costruisce attorno all'esperienza della gratuità della salvezza di Dio, oppure un'altra concezione che tende, come fa spontaneamente quella della tradizione cattolica, alla pienezza degli elementi, sono due configurazioni diverse che hanno le loro ragioni e che al tempo stesso devono potersi misurare tra di loro. Vengo all'ultimo dei punti della mia riflessione, che è legata alla categoria, diciamo, più popolare nella riflessione ecumenica degli ultimi decenni, cioè la categoria di comunione. La categoria che negli ultimi 20-30 anni, per certi aspetti, ha quasi sostituito quella di unità che era quella classica del movimento ecumenico, perché unità è troppo rigida, è facilmente confusa con un'uniformità, mentre invece comunione è una realtà che ammette la pluralità, la diversità al suo interno e la porta all'unità tra di loro. Mi pare interessante, vorrei solo considerare un aspetto del modo in cui questa categoria di comunione ha permesso di orientare la ricerca di una comprensione comune della Chiesa. Mi pare interessante il fatto che ha trovato applicazione questa categoria anzitutto a livello locale. Cioè, quando noi diciamo comunio, non dobbiamo pensare anzitutto a tutti i cristiani che ci sono nel mondo e al vincolo reale, spirituale e profondo che li unisce, ma dobbiamo pensare all'assemblea che si riunisce la domenica per la celebrazione eucaristica, per il culto. No. Lì c'è una comunione che diventa reale, ed è questa comunione che viene dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo che si realizza in maniera effettiva nel luogo in cui la comunità si incontra. E mi pare che proprio questo sia stato il punto focale che ha permesso nella dialogo cattolico-luterano anche di raggiungere un consenso sulla struttura di questa comunità. E la teologia cattolica si è riconosciuta senza troppa difficoltà in quella descrizione che noi troviamo nel documento fondamentale della riforma luterana, cioè la Confessio Augustana, che all'articolo 7, quando parla della Chiesa, parla di due segni fondamentali che permettono di riconoscerla, cioè la predicazione del Vangelo e l'amministrazione dei sacramenti. Non si parla espressamente del ministero, se ne parla altrove, ma è evidente che se c'è la predicazione, ed è una predicazione che si compie in forma pubblica, e se c'è l'amministrazione dei sacramenti, c'è anche qualcuno che compie queste azioni e c'è un ministero istituito all'interno della comunità. Mi pare interessante la logica verso cui tende appunto la concezione luterana nel fondare appunto la necessità della Chiesa a partire dalla mediazione appunto ecclesiale del Vangelo che suscita la fede. L'articolo 4 della Confessio Augustana, che precede il 7, interessante perché parla che per poter essere giustificati gli esseri umani hanno bisogno dell'annuncio della parola che suscita la fede. Ma se c'è l'annuncio della parola che chiama alla fede, ci sarà qualcuno che lo annuncia, ci deve essere un luogo ecclesiale dove la parola di Dio viene annunciata. Allora, mi pare che c'è stata una convergenza molto interessante su questo, diciamo, fisionomia della Chiesa locale in cui si realizza la dinamica fondamentale della chiamata alla fede, in cui c'è qualcuno che annuncia il Vangelo, che celebra i sacramenti e che attraverso questo suscita la fede che giustifica. Parola, sacramento, e ministero a servizio della parola e del sacramento sono gli elementi costitutivi di una comunità locale in cui la realtà spirituale, la realtà trinitaria della comunione diventa percepibile. Un po' più complicata la faccenda diventa quando si considera la comunione che non si limita alla comunità che si riunisce per la celebrazione eucaristica domenicale, ma si considera, che so, una forma regionale di chiesa, come può essere nel nostro ordinamento cattolico la diocesi, oppure un insieme di diocesi, oppure la chiesa universale. Perché nella concezione cattolica, questa è una dimensione altrettanto importante della comunione, che è quella che permette a tutti i credenti che hanno creduto nel Vangelo, che sono stati battezzati, di riconoscersi anche oltre i confini della comunità a cui appartengono, della comunità locale, di riconoscersi come parte della medesima comunione, e ha sviluppato la tradizione cattolica nel corso dei secoli una struttura che permette a questa comunione universale di funzionare. Collegio episcopale e il Vescovo di Roma, che è a capo del collegio episcopale, è la struttura a cui spontaneamente la tradizione cattolica pensa quando la comunione che viene vissuta a livello locale si realizza anche con un'ampiezza che va oltre il livello locale fino ad arrivare a quello universale. E qui mi pare c'è un punto su cui constatiamo una profonda differenza, mi pare proprio di impianto della riflessione sulla Chiesa. Perché? Perché la logica secondo cui procede la tradizione della Riforma, la tradizione luterana, è ciò che è necessario per la salvezza è necessario per la Chiesa. Quindi noi possiamo attribuire un carattere necessario alla parola, al sacramento, al ministero che è a servizio della parola e del sacramento, ma lì c'è già in qualche modo il tutto della Chiesa. Perché? Perché lì si sperimenta la salvezza, il dono di Dio, e quindi ciò per cui la Chiesa c'è, ciò a cui serve, è già compiuto in forma piena lì. Ci possono essere altre forme organizzative, ma che non hanno lo stesso rilievo e la stessa necessità. Nella tradizione cattolica si riconosce che ovviamente l'episcopato non è necessario per la salvezza, ma si riconosce come dimensione non solo utile, non solo raccomandabile, non solo opportuna, ma necessaria della Chiesa anche questa possibilità che attraverso una rete di ministeri che fanno capo al collegio episcopale e il servizio specifico che il Vescovo di Roma esercita nella Chiesa, la comunione trovi una realizzazione che si manifesta sul piano universale tanto nello spazio come nel tempo. No, la successione apostolica è l'idea, riflette l'idea che in fondo c'è una continuità che attraverso le professioni di fede, attraverso il ministero esercitato nelle diverse chiese, ci lega alla Chiesa degli Apostoli e esprime la comunione universale. Il testo Chiesa e giustificazione tocca questo punto e cerca di distinguere due punti di vista, no? Ciò che è necessario per la salvezza e ciò che è necessario per la Chiesa. È necessario per la salvezza, per certi aspetti la tradizione cattolica ha relativizzato anche ciò che è necessario per la salvezza, nel senso che c'è tutta una lunga linea di che soprattutto in epoca moderna, dopo le scoperte geografiche, che si chiedono appunto come fanno questi essere salvati a avere possibilità se non hanno senza loro colpa incontrato il Vangelo, allora tutte le teorie sul desiderio implicito della Chiesa. Quindi per certi aspetti l'ha relativizzato, ma nel contesto del nostro dialogo, si insiste su ciò che è necessario per la salvezza e che configura appunto questa via attraverso cui nella Chiesa uno incontra l'annuncio del Vangelo, viene santificato dal sacramento e riceve la guida di un ministero pastorale, e al tempo stesso ciò che è necessario per la Chiesa nella sua comunione universale nel tempo e nello spazio. E concludo citando appunto da Chiesa e giustificazione al numero 196 questo passaggio: ministero episcopale e successione apostolica come trasmissione ordinata del ministero ordinato nella Chiesa sono quindi, secondo la concezione cattolica, essenziali per la Chiesa in quanto tale e in questo senso necessari e irrinunciabili. E tuttavia le due colonne necessarie per la salvezza dell'essere della Chiesa sono la parola e il sacramento. Il ministero episcopale e la successione apostolica sono al loro servizio come servizio di ciò che è necessario alla salvezza, affinché la parola sia autenticamente annunciata e i sacramenti correttamente celebrati. E mi pare di vedere anche in questo nesso tra ciò che succede nella comunità eucaristica che si riunisce la domenica, in questo orizzonte più ampio della comunione ecclesiale, una delle ragioni che frena i passi in avanti che si auspicano attorno alla, se non alla piena comunione nella celebrazione dell'Eucaristia, almeno nel riconoscimento di alcune condizioni in cui questo potrebbe avvenire. La mia impressione è che la ragione che sta al fondamento di questa resistenza cattolica è proprio la percezione del legame che c'è tra queste due dimensioni della comunione, quella locale e quella universale. In fondo l'Eucaristia è sempre al tempo stesso celebrazione della Chiesa locale, ma inserisce in una comunione universale. Allora, secondo il criterio che Unitatis Integratio formula, mi pare nel numero 8, se non ricordo male, che la partecipazione comune all'Eucaristia e ai sacramenti è espressione di una comunione pienamente data, questa è la ragione che sta appunto, che spiega, che giustifica in qualche modo la resistenza su questo tema. Mi fermo qui e vi ringrazio per la vostra pazienza. Grazie di cuore a tutti e tre. E il pastore Prighe nel suo intervento notava come la rimozione dei problemi aiuti poco, sia teologicamente sia psicologicamente. Il professor Maffeis ci ha aiutato a entrare nei problemi teologici del dialogo cattolico-luterano, ma mostrando anche le strade e il modo in cui possono essere percorse alcune strade. Quelle strade che ci avevano indicato prima il pastore Jourdan e il pastore Prighe, si può camminare consapevoli della posta in gioco e dei problemi che si pone. E vi accenno ad alcune iniziative collegate sempre al ricordo dei 500 anni dall'inizio della Riforma, che saranno attuate nei prossimi mesi, soprattutto alcune iniziative della Facoltà Teologica del Triveneto e dell'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia. Il 23 febbraio a Venezia, giovedì, ci sarà una conferenza, una giornata di studio sulla nozione di riforma e il presente come tempo di riforma, ci sarà il professor Lauster. Poi, sempre in questo ambito, il giovedì 4 maggio a Venezia, all'Istituto di Studi Ecumenici, una mezza giornata di studio su riforma e riforme nel Nord-Est. Quindi la prima un taglio più teologico, sistematico e pastorale, la seconda un taglio più storico. Il professor Maffeis ha ricordato prima il contributo decisivo per la nostra Chiesa locale e non solo di Don Luigi Sartori a una mentalità ecumenica, a un spirito e a una teologia ecumenica. L'8 giugno in Facoltà Teologica del Triveneto ci saranno il pastore Ricca e teologo Piero Coda che ricorderanno l'itinerario teologico di Luigi Sartori anche prendendo spunto dalla pubblicazione recentissima di una tesi di dottorato in teologia di Antonio Recupero proprio su questo tema, l'itinerario teologico di Luigi Sartori. L'anniversario della Riforma non interessa solo l'ambiente ecclesiale, l'ambiente teologico, c'è un interesse vivo anche al di fuori nel mondo culturale, sia dal punto di vista storico, artistico, e a questo proposito segnalo che il 30 marzo nella Chiesa degli Eremitani ci sarà un concerto promosso dall'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti di Padova e dai Rotary Club del Veneto, un concerto che vorrebbe essere il concerto per la riconciliazione, forse non tanto in occasione della riconciliazione avvenuta, ma in vista di un cammino. Un concerto nel quale verrà eseguita una cantata di Bach, la cantata 21, e il Magnificat sempre di Bach. Ecco. Momenti diversi di un percorso che continua, gli altri appuntamenti della settimana e le altre offerte anche legate sempre al tema del dialogo. Ricordo ancora, e poi finisco, due proposte della Scuola Diocesana di Formazione Teologica, legate, una che vedrà Don Giulio Osto come promotore su Lutero, Bach, Cranach e Company, e con risonanze artistiche della riforma del ecumenismo, e un'altra proposta di un corso di alcune ore sul dibattito sulla giustificazione per fede del peccatore che proporrò io. Era la voce di Don Angelo Maffeis, sacerdote bresciano, teologo cattolico, intervenuto sabato 14 gennaio al Teatro San Leopoldo di Padova al convegno Dal conflitto alla comunione, il cammino del dialogo luterano-cattolico. Ritrovate tutto sul nostro sito bluradioveneto.it nella sezione podcast. Ringraziamo per la parte tecnica Francesco Galante e Eddie Daici. Da Mirko Cavallini è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.